Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ovviamente andremo avanti come ogni giovedì fino alle ore 21:30 e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. No one escapes, Vincent. There are no martyrs here. All the confessions made here are true. We do not destroy the heretic because he resists us. As long as he resists us, we never destroy him. We make him one of ourselves before we kill him. We make his brain perfect before we blow it out. And then, when there is nothing left but sorrow and love of Big Brother, questo era il brano sigla di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì qui dal studio di Radio Onde Furlane in diretta. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ora andiamo all'ascolto invece di questo album di esordio di questa band californiana esattamente dell'area di Los Angeles. Loro sono i Distillers, datato 2000, ed era il loro primo album, appunto, omonimo al nome della band, Distillers. Open sky, open ether, open rise up inside. I see it, it's true, yeah, it's true. All rise, open ether, all rise up inside. Believe it, it's true, yeah, it's true. Tremate, tremate, perché non ce ne siamo mai andate. Oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne e di genere, vogliamo parlare di una delle forme di violenza che lo Stato esercita in modo sempre più capillare e pervasivo, la repressione. iniziamo esprimendo la nostra incondizionata solidarietà alla compagna e al compagno dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione, che a seguito di alcuni interventi pubblici di denuncia della malsanità in carcere e per aver espresso solidarietà con compagni e compagne imprigionate per aver lottato contro le istituzioni totali, il militarismo e il neocolonialismo, sono state accusate dei reati di istigazione a delinquere e diffamazione e stanno subendo un processo. Abbiamo saputo che durante un'udienza siamo state tirate in causa e nominate ripetutamente. Si voleva sapere se la compagna e il compagno imputato facessero parte della coordinamenta transfemminista e si voleva appurare il perché o perciò un dei due avesse parlato durante una nostra manifestazione contro la violenza di genere del novembre 2019. Vogliamo rispondere così. Ai nostri cortei è benvenuto chi lotta contro i soprusi e le violenze che lo Stato esercita su soggettività oppresse e inferiorizzate, come sono in questo caso le persone detenute in qualsivoglia istituzione totale, e chi è solidale con queste lotte. Ai nostri presidi parla chi vogliamo noi, cioè chi ha la nostra stima, la nostra fiducia, le persone con cui sentiamo un'affinità politica. Parlano le persone generose che si espongono per chi non può avere una voce, come chi sta dentro a un CPR o a un carcere. Parlano le persone coraggiose che si esprimono senza fronzoli, correndo il rischio di dire le cose come stanno perché è giusto farlo. Ma ci teniamo a dirvi anche chi non parlerà mai. Alle nostre manifestazioni non si accettano atteggiamenti oppressivi e prevaricatori, dinamiche di potere di matrice patriarcale che il nostro gruppo vuole smantellare. Per questo non parleranno mai fascisti, sessisti e razzisti, né individui in divisa e rappresentanti istituzionali di partito. Non ci riconosciamo né ci sentiamo rappresentate da questi ultimi due, che sono il braccio e la mente di politiche securitarie ed emergenziali fatte opportunisticamente sui nostri corpi, di cui vorrebbero espropriarci per disporne come credono, per regimentarci e controllarci, pena la solita ricetta, esclusione sociale e violenta repressione. Esprimiamo quindi solidarietà e vicinanza alla compagna verso la quale è in atto un vero e proprio accanimento repressivo, volto a isolarla e intimidirla, con una pretestuosa perquisizione, oltre che la via di procedimenti penali a suo carico. Saremo al suo fianco, faremo eco alla sua forza, che assieme alla nostra sarà inscalfibile. Lo saremo tutte. Continueremo a scendere nelle piazze e a dire quello che pensiamo, nonostante il clima di caccia alle streghe e l'ingombrante presenza di sbirri e sbirre, con e senza divisa, ogni volta che lo facciamo. Vogliamo infatti ricordare che entrambi i cortei da noi organizzati sono stati pedinati e scortati da un numero spropositato di guardie. Siamo state filmate e registrate da quelle in borghese durante i presidi in centro, questo ormai è chiaro anche agli atti processuali, in una maniera invadente e ossessiva, talmente sproporzionata da apparire ridicola anche agli occhi delle persone generalmente più ingenue che di solito non si accorgono di questi dettagli. Aver mandato a filmare il presidio per l'8 marzo 2021 un poliziotto che era l'incarnazione dello stereotipo del maschio cis abietto e prevaricatore ci ha però tolte dalla fatica di dover spiegare cosa intendiamo quando diciamo che lo Stato è patriarcale e difende solo se stesso, in strada come nei tribunali. Per questo, da chi non perde occasione per farci capire che dobbiamo stare zitte nei ranghi, non vogliamo e non vorremo mai niente se non la sua fine. In ultimo, ci teniamo a dire che non prendiamo nemmeno in considerazione, anzi, rigettiamo le soluzioni legislative di tipo protezionistico, che ci negano l'autodeterminazione. Rivendichiamo invece l'autodifesa femminista e la solidarietà tra i soggetti oppressi come arma da impugnare contro l'oppressore, se esso il maschio cis abusatore, se esso in divisa, se esso in toga, se esso con il camice bianco o la camicia nera, oppure in abito talare. Se ci vogliamo veramente vive, allora dobbiamo anche agire per restarlo. Yeah, I'm out of my mind. Don't wanna waste this away. E questi che stiamo ascoltando in sottofondo sono i Distillers, band statunitense, esattamente dall'area di Los Angeles. Questo è il loro album di esordio, datato 2000. Questa band che ha suonato, insomma, ha vissuto per 5-6 anni per poi riformarsi esattamente 2 anni fa, e comunque hanno inciso per la Hellcat Records, che non è altro che una etichetta che ha prodotto il marito della cantante di questa band, appunto Distillers. Sì, un saluto anche da parte mia. Dopo il comunicato di solidarietà prodotto dalla coordinamenta transfemminista di Udine in solidarietà con noi compagni della Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, che curiamo questo programma, appunto, Zernis Magnetics, dopo questo comunicato di solidarietà, del quale ringraziamo, continuiamo a parlare di violenza di Stato, di violenza sanitaria, di violenza istituzionale, e lo facciamo con delle osservazioni relative a una giornata particolare, diciamo, che è stata chiamata Special Vax Day dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, e giornata appunto che promuove la vaccinazione anti-Covid per diciamo le donne in stato di gravidanza. E allora, guardando, per chi ha ricevuto, insomma, la scaletta della trasmissione, con l'invito ad ascoltare, abbiamo titolato queste osservazioni Il corpo della donna come luogo pubblico, sull'abuso del concetto di vita. E questo era il titolo di un libro del 1994 di Barbara Duden, che appunto analizzava l'evoluzione, diciamo, la creazione del feto come idolo nella società così tecnologica e nella società in cui la scienza ha sempre più preso potere e soprattutto dominando attraverso appunto il suo potere scopico, cioè il potere di vedere dentro i corpi delle persone. E dopo dirò due parole su questo testo della Duden che, pur essendo datato, è molto, molto importante, è tuttora molto, molto attuale, datato diciamo dal punto di vista cronologico. Allora, intanto vale la pena di dire questo: in questa chiamata, che è veramente una chiamata che io definisco oscena, da parte dell'azienda sanitaria alle donne in stato di gravidanza a vaccinarsi, una chiamata che ignora completamente il principio di precauzione, ad esempio, visto che non ci sono certezze rispetto all'esito sui feti. Comunque, nella chiamata il volantino è già diciamo è di per sé molto eloquente. Vi è rappresentata non una donna, ma un troncone di donna, una donna mozzata, diciamo, all'altezza del ventre, appunto una donna che è simile, più che una donna, un corpo che è simile a un'anfora, appunto un contenitore per il feto. Infatti all'interno della pancia, appunto, c'è questa immagine del feto. E poi che cosa succede? Anche che l'azienda promette, in cambio di questo dono alla patria, cioè di vaccinarsi appunto per il bene comune della patria, l'azienda promette alle donne che si sottopongono al vaccino una foto del feto ottenuto con l'ecografo. E appunto questa trovata, questa idea della foto del feto da ecografia rimanda al feto persona, e quindi rimanda a brutte cose, a brutte campagne di criminalizzazione delle donne rispetto al diritto di abortire, appunto considerando il feto persona. Poi ricordiamo che di solito si fanno le foto ai nati e alle nate e non ai feti, in quanto i feti sono ancora feti, appunto, non sono venuti al mondo. E questa promessa, questa trovata appunto dell'azienda sanitaria, rivolta per convincere, per rafforzare la convinzione delle donne in gravidanza a sottoporsi al vaccino, rimanda a un certo feticismo del concetto di vita. Per questo anche appunto ci è venuta in mente questo testo della Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico, sull'abuso del concetto di vita. Si dedica quindi da parte dell'azienda un Vax Day alla categoria, tra virgolette, delle donne incinte, e con questo si esprime pienamente un abuso e una speculazione sul concetto di vita. A nostro modo di vedere, ciò che sta succedendo con la democratura etico-militar vaccinale è di una gravità epocale. In meno di 2 anni sono stati spazzati via da gran parte della sinistra di classe decenni di riflessioni, di discussioni, decenni di lotte per l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività non conformi. In 2 anni molta parte del panorama del femminismo, ma anche dei movimenti delle minoranze non conformi, è stata azzittita, ammutolita, annichilita appunto da questa campagna totalitaria per la salute pubblica. Con il ricatto appunto della salute pubblica, gli stati capitalisti, che hanno distrutto il pianeta e violato ogni naturalità e che continuano a farlo, cooptano anche quelle minoranze che stavano ai margini e contestavano. Ma noi ci chiediamo di quale salute stiamo parlando. Attenzione però, non tutte le minoranze cedono. Qua si resiste e si diserta. E non si è nemmeno così pochi poi alla fine. Ciò che le autorità statali stanno facendo è di una violenza totale, capillare nelle sue forme di espressione, altro che 25 novembre. E discorsi imbalsamati, sempre uguali a se stessi, e che invocano oltre a ulteriori stati di polizia, anche un miglior uso del PNRR, come se ce ne potesse essere uno. Maggiori progetti contro la violenza di genere, senza però voler vedere questa planetaria violenza verso il vivente che si sta compiendo per far andare avanti la baracca verso il baratro, costi quel che costi. E appunto questa campagna vaccinale dell'azienda sanitaria friulana ci ha evocato questi pensieri. Ma dico ancora due cose rispetto al libro, appunto, Il corpo della donna come luogo pubblico sull'abuso del concetto di vita di Barbara Duden. L'autrice l'ha scritto nel 94 cercando di ricostruire la storia del corpo e insieme il racconto di come le donne abbiano conosciuto il proprio corpo. E è un'analisi molto approfondita, insomma, fa moltissimi esempi e diciamo che scandaglia come si è costituito e rafforzato il potere scopico della scienza. La Duden ci parla, ci dice, insomma, parte da una storia del ventre, da una storia del sentire all'interno del ventre e del vedere anche dall'interno, però. Quindi parte da una storia dell'esperienza nell'oscurità sotto la pelle, un'esperienza soggettiva e anche molto precisamente femminile, e poi si arriva al predominio della visualizzazione, che presuppone una propensione ad attribuire lo status di realtà solo a ciò che può essere registrato strumentalmente. E qui arriviamo anche agli strumenti, appunto, tecnologici che servono a visualizzare. E secondo la Duden, ad esempio, anche attraverso l'ecografia, il corpo della donna è stato espropriato e l'embrione a sua volta personificato. La tecnica dell'ecografia, che ricopre simbolicamente un ruolo dominante, ha condizionato fortemente la donna incinta, producendo in lei nuovi bisogni e nuove paure. L'ecografia consente alle donne di guardare nel proprio ventre e così facendo le induce a conferire all'emblema lo status di realtà. Il confine tra dentro e fuori scompare e il suo ventre e il ventre pubblico si fondono in un tutto. La sua gravidanza viene occupata dal feto pubblico. Ecco, quindi la donna diventa un ecosistema del feto. Attualizzando, la donna come ecosistema del feto ha la responsabilità di fronte alla patria, ripeto, di vaccinarsi, cioè di adeguarsi a questa pratica totalmente autoritaria da parte dello Stato. E poi altre cose che dice appunto la Duden sono significative. Sembra ancora di più di leggere il volantino di cui vi parlavo prima, prodotto dall'azienda sanitaria. Il feto non è nemmeno più un simbolo, ma una raffigurazione. La madre non esiste più, è ridotta a involucro, a bolla trasparente. L'oggetto ha acquisito vita propria. Tutti lo accettano come vita umana. Qualcuno esige addirittura il riconoscimento dei suoi diritti umani. La realtà corrispondente all'oggetto viene creata scientificamente, solennemente rimescolata dai media, quindi ingoiata dalle donne senza discutere. Vabbè, poi insomma ci sono tantissime altre, in questo libro, tantissime altre cose molto interessanti anche relativamente al linguaggio scientista che viene inglobato dalla cultura clericale, per cui al tempo c'era Ratzinger, non era ancora papa, ma comunque Ratzinger stesso utilizzava parole diciamo ricavate dall'embrionologia e dalla scienza per rivendicare lo statuto di persona del feto, ma addirittura delle prime cellule, insomma, del blastocitta. E quindi ci sono queste cose, insomma, molto interessanti. Tra l'altro, parlando di questo, credo che fino a 2 anni fa un'immagine come quella che è stata utilizzata dall'azienda sanitaria, cioè quindi questa donna tronca, contenitore, questa donna diciamo con solamente dei capelli lunghi, il seno e la pancia in gravidanza, con dentro la pancia questo feto insomma disegnato, appunto prima di questo disastro degli ultimi due anni, disastro delle coscienze, ci sarebbe stata una insurrezione, penso, anche delle femministe mainstream, perché comunque è un'immagine veramente oscena che qualsiasi donna che abbia a cuore l'autodeterminazione non può che rigettare. E invece ora c'è questo silenzio così angosciante e tutto passa, no? Però no, non tutto passa, per fortuna c'è ancora qualcuno che non fa passare, ma si tende a far passare tutto. Boh, concludo questo argomento citando ancora due cose. Allora, dice ancora la Duden, in un contesto che reclama la sopravvivenza a tutti i costi per superare le crisi individuali, le crisi sociali, le crisi globali, l'emblema feto, vita, diviene idolo. Il discorso sulla donna incinta si è spostato verso una nuova direzione, la donna incinta quale condizione per la riproduzione della vita umana. Nello specifico, il discorso si snoda intorno al problema del possesso e del controllo sulla riproduzione, attività propriamente femminile su cui lo Stato, la Chiesa, il sistema patriarcale capitalistico vorrebbero metter mano. Il consenso alla divinizzazione della vita si spiega proprio con questo spostamento semantico. Il nuovo peso attribuito alla sopravvivenza. Questa è la tesi conclusiva di Barbara Duden. In questo stesso contesto, il gusto della vita è determinato non tanto dalla gioia per la vitalità della natura, ma dalla paura per la vita, per il suo possesso, per la sua sicurezza, dal tentativo di pianificarla e migliorarla. Allora, di fronte a tutte queste cose che sono veramente attuali, e noi possiamo dire che invece occorre rendere contagiosa la libertà di questi tempi e non la sottomissione, anche se questo può essere difficile e non privo di rischi. Stiamo ascoltando, cioè, anzi abbiamo appena ascoltato, ma ascolteremo ancora un brano per questa band francese, sono esattamente dell'area di Lione, loro sono le Litige e questo è il loro album di esordio datato 2017. Avante, che si chiama Fuite en Avant. Loro sono le Litige. Rimaniamo sempre all'ascolto di questa band francese dell'area di Lione, e loro sono le Litige ed è il loro album datato 2017. Sì, e arriviamo al terzo argomento della trasmissione di stasera, che era già stato annunciato la scorsa settimana e poi, insomma, per ragioni tecniche non sono riuscita a proporlo, e cioè questo articolo di una compagna di qualche tempo fa, un articolo molto dettagliato sul PNRR e non solo. E comunque, appunto, da questa compagna il PNRR viene definito Piano Nazionale di Radiazione di Ogni Resistenza Umana. Vado a darne lettura. È ormai evidente che un'emergenza sanitaria reale è diventata il cavallo di Troia attraverso cui limitare in modo sempre più accelerato le libertà individuali e plasmare un nuovo ordine sociale in cui il valore di ogni specie, compresa quella umana, e del pianeta, diventano esplicitamente secondari rispetto alla sopravvivenza e al funzionamento adattato del sistema. Premetto che per me è importante in questo momento sottolineare che non si tratta di un banale virus, che si tratti di un prodotto di laboratorio o che sia conseguenza della devastazione ambientale nel suo complesso, è un dato di fatto che esso richiede di essere trattato per tempo ed in modo appropriato, specifico e da persone competenti. E che il cosiddetto long covid riguarda il 14% dei contagiati, in proporzione maggiore nelle fasce più giovani, con conseguenze sul lungo termine ancora ignote. Sminuirne la gravità è, a parer mio, un errore, sia perché esso è l'ennesima dimostrazione di quanto il sistema in cui viviamo sia inaccettabile, sia perché saltare le curve corrisponde alla tendenza diffusa in questo periodo ad isolare le critiche e i fenomeni, perdendo di vista il rapporto fra ciò che si produce e le cause che lo generano. Forse è proprio la portata della situazione a determinare questa difficoltà nella lettura globale di quanto sta accadendo. La pandemia, la definisco tale in senso letterario, ovvero come qualcosa che ha coinvolto la popolazione dell'intero pianeta, ha mostrato tutte le conseguenze delle scelte operate negli ultimi 30 anni nel Servizio Sanitario Nazionale: la privatizzazione dei servizi, i tagli delle strutture del personale, la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali, in nome delle regole dell'economia e del profitto, hanno ridefinito l'accesso oltre che l'approccio alle cure. A precedere e a stimolare queste prassi vi è da un lato la direzione assunta dalla medicina nel suo complesso a partire dagli anni 50, la scelta di investire tempi e risorse nell'investigazione e la classificazione dei sintomi, limitando via via l'indagine e la rimozione delle cause dello squilibrio, ha prodotto una visione nuova della malattia. Ogni segnale di squilibrio va rimosso attraverso l'utilizzo di farmaci e protocolli, senza alcuna considerazione del contesto individuale ed ambientale in cui si producono. In questo modo le scelte collettive ed individuali, i perché causali, sono state private di ogni rilevanza, permettendo l'accrescersi indisturbato di situazioni pericolose, l'ILVA, il TAV, l'uso massiccio di pesticidi, eccetera. Nel contempo si sono creati i presupposti per la generazione di una società di malati cronici. In Italia si parla del 40% della popolazione. In concomitanza, il potere economico e politico assunto dalle case farmaceutiche, diventate big attraverso processi di fusione, sarebbe forse più appropriato parlare di inglobamento delle imprese più limitate, di realtà similari, ad esempio Pfizer, e o di aziende di alto interesse tecnologico, ad esempio Bayer. Il potere appunto delle case farmaceutiche è aumentato esponenzialmente. Il paziente, cioè colui che sente, dopo essere classificato come malato, cioè colui che ha una malattia, diventa infine consumatore fidelizzato in virtù di quanto sopra, ovvero una mancata ricerca, denuncia e risoluzione delle cause dello squilibrio, ma anche dell'approccio espressamente commerciale utilizzato dai produttori sia verso i destinatari dei farmaci sia verso quella fetta, ahimè, consistente di medici e ricercatori compiacenti. La visione meccanicistica della vita è stata cavalcata quindi da un approccio farmacologico e specialistico, ed il ruolo della medicina di base, quella per cui un individuo si rivolge al medico di fiducia, si è progressivamente ridotto fino a diventare nei fatti un ambito burocratico, ovvero il punto di accesso per le necessarie prestazioni mirate. Ne sono la riprova le strategie che lo Stato ha attuato nel corso dell'ultimo ventennio, sovvenzionando i medici di medicina generale che decidevano di associarsi. Questa scelta, oltre ad essere funzionale a sopperire alla carenza di queste figure, sul Sole 24 Ore di qualche tempo fa un'indagine palesa la mancanza di questa figura sanitaria per 1,5 milioni di italiani, prendendo in considerazione solo 8 regioni, comporta anche un graduale adattamento all'idea che non è fondamentale una figura di riferimento nella cura, svuotando di contenuto la presa in carico e traducendola in mera erogazione di servizi, peraltro sempre più frequentemente su basi prestabilite. Sostanzialmente si è giunti ad affrontare questa situazione con una medicina claudicante, svuotata di qualsiasi intervento rivolto alla salute, e cioè della sua medicina rilevanza politica, in cui la prevenzione coincide con la capacità di diagnosi precoce avulsa dal contesto specifico umano e territoriale. Alla luce di tutto ciò, la gestione del suo complesso di quanto è accaduto a partire da marzo 2020 sul piano sanitario diventa forse più comprensibile. Non stupisce da parte della maggioranza di medici né l'adesione alle indicazioni e ai protocolli imposti, né l'abbandono dei pazienti a casa, né la ritrosia verso un confronto pubblico sul territorio, né oggi la mancanza di prese di posizione rispetto a quanto si verificherà se verrà attuata la linea prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il primo paragrafo del PNRR recita così: la pandemia da Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri paesi europei. Nel 2020 il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 2020 e a marzo l'Italia è stato il primo paese dell'UE a dover imporre un lockdown generalizzato. Ad oggi risultano registrati quasi 120.000 decessi dovuti al Covid-19, che rendono l'Italia il paese che ha subito la maggior perdita di vite nell'UE. E questo era il primo paragrafo del PNRR. L'esordio quindi è spudoratamente riservato all'economia. D'altro canto il piano riguarda la ripresa dell'economia e la resilienza, termine che fino a 100 anni fa si accostava solo ai materiali e che poi è stato ampiamente utilizzato nell'ambito della psicologia per indicare la capacità della persona di resistere, più letteralmente di contrarsi e barricarsi di fronte a un evento. Fa specie anche il riferimento, sempre nella premessa, al miracolo economico nel secondo dopoguerra. Ogni azione individuale e collettiva deve, da marzo 2020, tener conto della guerra in corso contro il virus, in primis appunto per indurre la ripresa economica, sacrificando le vite di troppi e le libertà degli altri. du kleine Kifferbraut. Du wirst doch keine Anzeige kriegen, oder? Dann komm heute Nacht mal auf meine Bude, Sackgasse, Ecke, Hohenallee, alles klar? E continuiamo con la lettura di questo documento PNRR, Piano Nazionale di Radiazione di Ogni Resistenza Umana. E continua il fischio. Beh, lo stesso, vado avanti. Il PNRR è il testo programmatico che consente di avviare concretamente la partecipazione al Next Generation EU. I contributi ammontano a 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026, di cui 68,9 miliardi a fondo perduto. Quindi, oltre i 120 miliardi di debito che ricadranno, sulle teste dei lavoratori nell'arco di poco tempo, elemento anche questo non trascurabile. Questi fondi sono stati concessi previa approvazione della loro destinazione e non hanno di fatto nulla a che vedere con la tutela della popolazione e dell'ambiente, ma al contrario favoriscono la tendenza alla digitalizzazione di ogni aspetto della realtà a discapito dei territori e delle specie viventi. Ne è una conferma il fatto che a fine settembre la stessa Unione Europea ha stanziato 6 miliardi complessivi spendibili entro il 2026 per fronteggiare le future pandemie, che dal loro punto di vista ineluttabilmente si presenteranno. A riprova della prassi consolidata di utilizzare un linguaggio volto a mistificare e ad offuscare i contenuti, oltre agli anglicismi di cui questo testo è infarcito, quasi a mostrarne la modernità e quindi il valore, ci si riferisce nel titolo alla salute, non alla sanità, instillando l'idea che lo Stato, come un buon padre autorevole, a seguito di quanto accaduto, voglia prendersi cura in modo risoluto e capace del benessere della popolazione. È evidente che favorire condizioni e pratiche che consentano ad ogni individuo di esprimere liberamente le proprie potenzialità va nella direzione esattamente contraria al progresso del sistema, che per riprodursi efficacemente ed indisturbatamente necessita del prolificare di malattia e disagio. Di fatto il terreno attualmente più fertile per il controllo sociale e per il mantenimento di una società gerarchica. Le restrizioni e l'isolamento sociale radicale imposti a partire da marzo 2020 stanno ridefinendo le relazioni nel loro complesso. La percezione del contatto, fisico e non, con l'altro o con altro, è stata facilmente manipolata, traducendo il valore dei rapporti in potenziale minaccia, gioco facile, agevolato per esempio da decenni di pratiche e di propaganda razziste. In una dimensione di dubbio, impotenza e paralisi generalizzata, lo Stato ha approntato una campagna mediatica per spingere alla vaccinazione e per introdurre il Green Pass, basata su slogan legati al senso di responsabilità civile, di solidarietà, facendo leva sulla mancanza di senso di appartenenza, strumentalizzando così anche la solitudine e la sofferenza dei più. Ecco che anche nel PNRR questa tendenza trova espressione nella scelta di termini quali casa della comunità e ospedale del territorio, per indurre adesione a questo grande progetto di riforma sanitaria e sociale. I fondi destinati alla missione 6, salute, sono 15,63 miliardi, così ripartiti: 7 miliardi per reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e 8,63 miliardi per innovazione, ricerca e digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. Vabbè, poi c'è un dettaglio che però vale la pena di leggere, non importa se è un po' dettagliato, perché ci dà l'idea di cosa succederà. 2 miliardi per case della comunità e presa in carico della persona, quindi abbiamo detto su 15,63 miliardi, 2 miliardi per case della comunità e presa in carico della persona, 4 miliardi per casa come primo luogo di cura e telemedicina, 1 miliardo per rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture, ospedali di comunità, 7 miliardi erotti per aggiornamento tecnologico e digitale, 4 miliardi per ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1,64 miliardi per un ospedale sicuro e sostenibile, 1,67 miliardi per rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, 1,26 miliardi per formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, 0,52 miliardi per valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del sistema sanitario nazionale, 0,74 miliardi per sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali. Ed entriamo più di preciso in merito ai contenuti di questa missione 6, salute, del PNRR. La Casa della Comunità rappresenta il fulcro della nuova medicina territoriale e sarà una struttura in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, e potrà ospitare anche assistenti sociali. Tutto questo viene citato dal testo. Mesi fa erano state definite ufficio unico del malato, aperte dalle 8 alle 20. In questo modo la medicina del territorio verrà completamente smantellata nel suo significato. Intanto perché i servizi di base diventeranno fisicamente raggiungibili con più difficoltà. Considerando 60 milioni di abitanti, la media è di una casa della comunità ogni 46.000 abitanti. Ma soprattutto preoccupa il fatto che è previsto entro il 2024 un numero elevatissimo di pensionamento dei medici di medicina generale, intorno ai 20.000, 32.500 se consideriamo l'anno 2027. Quindi si fa strada la possibilità concreta che verrà di fatto eliminata la figura del medico di fiducia. Il paziente dovrà affidarsi a medici turnisti che si occuperanno del sintomo o del quesito contingente. In questa direzione si muove l'attuale dibattito volto a rendere i medici di base, ora convenzionati, dipendenti pubblici a tutti gli effetti. Ciò comporterebbe infatti implicitamente l'impossibilità di una libera scelta del medico di fiducia, ma non solo. Probabilmente istituzionalizza il sodalizio tra case farmaceutiche, che sovvenzionano buona parte delle specializzazioni dei medici di medicina generale attraverso i sindacati più forti degli stessi, e lo Stato, togliendo ogni autonomia di espressione e di pratica a chi di loro volesse dissentire. In questo contesto di carenza di personale e di perdita di relazione, ben si spiega la destinazione di fondi alla telemedicina. Nelle dichiarazioni contenute nel paragrafo specifico, il suo utilizzo è previsto specificamente per i malati cronici, fino ad una percentuale del 10% della popolazione ultra 65enne, al fine di agevolare le cure domiciliari. In realtà l'ultimo anno e mezzo ha sdoganato l'utilizzo di questo strumento anche nell'ambito della medicina di base e diventerà di fatto, implementando l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, una prassi. Ne riprova il fatto che proprio in questi giorni viene data comunicazione dell'introduzione di piattaforme specifiche e relative app che utilizzano l'intelligenza artificiale per aiutare il medico nella scelta terapeutica non solo dei pazienti cronici. Certo è che, tolto il valore delle relazioni, tolto il senso della loro peculiarità, tolto il peso specifico di memoria ed intuito, come può essere paragonata la capacità di analisi di un medico, di un umano, con quella di un algoritmo? Da qui a delegare ad una macchina efficiente e per ora obbediente il compito, oltre che di risolvere le anomalie, anche di decidere modalità e requisiti per l'accesso alle cure, in base ai dettami del potere. Il passo non è poi tanto lungo. Non lo è neppure per prospettare l'utilizzo massivo di chip per il monitoraggio delle condizioni cliniche, prima dei cronici e poi di tutti indistintamente. In Svezia già 10.000 persone hanno volontariamente scelto l'impianto di almeno uno di questi aggeggi. Nel corpo c'è tanto spazio per il controllo di battito cardiaco, temperatura, ma anche per aprire le porte dell'ufficio. E un domani, potendo controllare in tempo reale l'adesione o meno alle indicazioni, prima sanitarie e poi comportamentali, dei singoli, stabilire chi ha diritto alle cure e chi no. Rispetto a questo discorso dell'uso dei chip, ad esempio in televisione già fanno una pubblicità abbastanza battente su dei chip per misurare la glicemia per le persone che sono diabetiche. E continuiamo con la lettura di questo documento sul PNRR e sulle sue ricadute sulla sanità. Un'ultima conferma viene dalla realizzazione di 381 ospedali di comunità, strutture intermedie dotate di 20 fino a 40 posti letto, destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media bassa intensità clinica e per degenze di breve durata, a gestione prevalentemente infermieristica. Saranno dunque gli infermieri, nella migliore delle ipotesi, a relazionarsi con i pazienti, mentre i medici del territorio staranno davanti a degli schermi. Per realizzare questo progetto, che spersonalizza tanto il paziente quanto il medico, è necessario implementare l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, istituito una decina d'anni fa e ad oggi ancora poco operativo. La maggioranza dei fondi vengono spesi per la digitalizzazione di ogni dato sanitario, che deve diventare consultabile in tempo reale attraverso la meraviglia del 5G. In qualsiasi contesto, la concretezza del corpo evapora, insomma, e restano solo un flusso di dati e la lettura del loro funzionamento. Senza entrare nel merito della sicurezza dei dati, quanto accaduto l'estate scorsa in Lazio e in Lombardia dimostra quanto essi siano in balia di chi che sia, non è un caso che il progetto di realizzare un documento di identità digitale che comprenda, oltre al tracciamento e al controllo attivo degli aspetti finanziari, anche i dati sanitari. L'accesso alle cure sarà subalterno all'accettazione di ogni dettame sotto l'imperio di quella brutta bestia che è il bisogno. Tornando al PNRR, quasi tutti i fondi vengono di fatto spesi per la digitalizzazione e per la tecnologia. Il resto sono fondi per la sostituzione di apparecchiature sanitarie, 1,19 miliardi, per il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva, più 3.500, e subintensiva, più 4.225, e messa in sicurezza delle strutture, 1,64 miliardi. E allora, vediamo un po'. Sintetizzando, potremmo pensare ad una nuova classe da un lato di tecnici istruiti ad hoc in giovane età verso un approccio acritico alle scienze, dall'altro di burocrati laureati in medicina generale che avranno già fatto atto di fede al momento dell'iscrizione all'università, sottoponendosi senza alcuna possibilità di discussione per ora a vaccinazioni, e domani si vedrà, come accade già da tempo nell'esercito. Un elemento che merita di essere affrontato con attenzione riguarda infatti le biotecnologie. La deroga temporanea dell'Unione Europea all'utilizzo degli OGM per poter autorizzare la produzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid ha permesso, nell'arco di pochi mesi, di sdoganare l'utilizzo di tecniche basate sull'editing genetico, senza trovare alcun ostacolo né concreto né di critica. Ogni giorno da qualche mese vengono presentati studi in vari settori, sia dell'agroalimentare sia della medicina, che utilizzano, a detta di lor signori con risultati straordinari, i benefici del sistema CRISPR. In Giappone, già sul mercato, il succulento Sicilian Rouge AI-GABA, un pomodoro che contiene quantità potenziate di GABA, un neurotrasmettitore inibitorio presente nel sistema nervoso centrale dei mammiferi, con effetto calmante e sedativo. Questo significa che l'opposizione al siero anti-Covid, tra poco tempo, davvero poco tempo, in termini di salute individuale, potrebbe diventare del tutto irrilevante se attraverso l'alimentazione o le proposte terapeutiche, ad esempio quelle per le patologie tumorali, viene introiettato lo stesso tipo di prodotto. La pandemia ha messo sotto i riflettori una tecnologia studiata da oltre un decennio che ora potrebbe essere applicata a malattie che vanno dalle infezioni virali al cancro e le malattie autoimmuni. In particolare l'ondata di interesse e gli investimenti in questa tecnologia, parliamo dei farmaci approvati basati sull'acido ribonucleico messaggero mRNA. E dicevo appunto, l'ondata di interesse e gli investimenti in questa tecnologia stanno favorendo un'accelerazione della ricerca italiana sulle malattie metaboliche ereditarie causate da geni difettosi. Così accade per esempio che l'ospedale di Padova, che collaborava con Moderna già precedentemente al marzo 2020, ora non ha più ostacoli nel testare questa tecnologia relativamente all'acidemia metilmalonica, una malattia rara che impedisce all'organismo di elaborare alcuni aminoacidi con gravi conseguenze. Se in questo caso il test è su un numero limitato e già ammalato di soggetti, Moderna ha annunciato lo sviluppo di un vaccino unico che contrasta contemporaneamente Covid-19 e influenza stagionale, ma anche studi per bronchiolite e melanoma, patologie queste molto più diffuse e con altre possibilità terapeutiche. Pfizer sta lavorando al vaccino anti-Covid unito a quello per lo pneumococco. BioNTech ha avviato la sperimentazione sui topi di una terapia mRNA per la sclerosi multipla. Nei laboratori della Penn University sono allo studio vaccini contro l'HIV e contro l'herpes genitale. Attraverso le biotecnologie vogliono in sintesi realizzare nuovi vaccini antinfluenzali universali, capaci cioè di garantire protezione una volta per tutte contro virus che mutano. Tutto questo è virgolettato. 50 anni fa propagandavano il latte artificiale da preferire a quello materno. Oggi, come evoluzione di quella logica, il sistema immunitario, cioè il sistema di relazioni interne di un individuo, viene valutato meno efficiente delle istruzioni tecnologiche impartite da scienziati al soldo di capitalisti intenzionati a dare forma ad un nuovo concetto di uomo e di donna, in tutto e per tutto assimilabile ad un prodotto difettoso e manipolabile. Yeah. Se l'intenzione della vaccinazione di massa fosse stata solo quella di sperimentare tecnologie che fino a poco tempo fa non avevano i requisiti di sicurezza per essere sdoganate, i paesi più poveri sarebbero stati i primi della lista. La salute dei popoli più affamati non ha alcun valore, mentre ne hanno parecchio le materie prime indispensabili per la digitalizzazione, che provengono per lo più da quei luoghi. A loro sono riservati, oltre al saccheggio e alla devastazione, espulsione e schiavitù. La portata dell'attacco è titanica e la medicina gioca un ruolo politico cruciale in questo momento e nel futuro prossimo. Milioni di persone non hanno potuto, causa Covid, avere accesso alle cure. Milioni di persone sono diventate più vulnerabili fisicamente e psicologicamente a causa del vissuto e dell'indotto di quest'ultimo periodo. A ciò si aggiunge il ricatto del controllo, che diventerà esplicito e totale a breve su ogni azione, la cui base dovrebbe essere la libertà, che a sua volta è correlata alla salute. Se in alcuni ambiti della salute è possibile provare a costruire percorsi di auto-organizzazione, che però richiedono impegno e tempo per diventare significativi, senza medici e strutture liberi c'è ben poca via di scampo. Una caduta dalle scale può capitare purtroppo a chiunque. Una cosa certa è che senza 5G tutto ciò diventa concretamente più arduo da realizzare. E qui la partita è ancora tutta da giocare. E termina così questo documento, appunto PNRR, Piano Nazionale di Radiazione di Ogni Resistenza Umana. E io per oggi vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Bene, sfumiamo questa band che sta andando, sì, che abbiamo ascoltato ora e anche alcuni brani prima durante l'intervento. Sono i Rakaus, ed è una band finlandese. Questo era il loro album di esordio, datato 2009, mentre prima ancora avevamo ascoltato un'altra band sempre con voce femminile, ed erano gli FFF, che purtroppo non so, non saprei dirvi cosa sono quelle abbreviazioni. Comunque era una band tedesca che è esistita a fine degli anni 80, a cavallo con i primi 90, ed era il loro album, unico album, datato 1989, che si chiamava Electric Violin Trash. Mentre ora, prima di concludere la trasmissione, andiamo all'ascolto di questa band canadese, che sono i Ballast. Bene, e siamo giunti quasi al termine di questa trasmissione, anzi mancano pochissimi minuti. È una trasmissione che viene trasmessa in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Si chiama Zardins Magnetics e inizia dalle ore 20 alle 21:30. Come di consueto, alla fine della trasmissione vi leggo i contatti, se volete scriverci, che sono per ovviamente posta elettronica liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. inoltre, chi volesse scriverci in modalità cartacea come ai vecchi tempi può farlo scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste Centro. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. Ed inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione che è andata in onda oggi, ma anche le precedenti trasmissioni, potete farlo nel blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, questo è tutto, vi lascio ancora con questa band con voce femminile che erano i canadesi Ballast, e ciao a tutti al prossimo giovedì, sempre dalle ore 20 alle 21:30 qui sui 90 MHz di Radio Onde Furlane da Udine. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.